1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Avanti, amici nostri debosciati d'Italia, le 7:18 minuti, come va? Siamo pronti a leggere i giornali, a approfondire poi dei temi dalle 8:15. Intanto torneremo a occuparci di abusivismo edilizio. Ieri sul Sole 24 Ore abbiamo scoperto che basta un'istanza al Presidente della Repubblica per fermare la demolizione delle case abusive. Avremo ospite il professor Paolo Berdini, torna con noi, urbanista, e così come avremo ospite il presidente di un comitato di Cava dei Tirreni che chiede la riapertura di fatto di un condono edilizio per la Campania. Ne abbiamo già parlato varie volte. Torneremo su questo tema, così come avremo ospite alle 8:40 il neo direttore responsabile di Charlie Hebdo, la rivista francese duramente colpita con l'attentato del 7 gennaio e che torna in edicola a partire da domani, dopo 50 giorni di sospensione delle pubblicazioni. Sarà con noi Gérard Biard alle 8:40. Intanto andiamo a leggere i giornali. In questo martedì 24 febbraio i titoli sono praticamente tutti legati alla Svizzera. Italia e Svizzera firmano l'addio al segreto bancario. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Per il Corriere della Sera, segreto bancario finisce un'era. Per Repubblica, mai più conti segreti in Svizzera. Slitta il piano, battaglia Grecia-Unione Europea. La Stampa, la Svizzera non è più paradiso fiscale. Il Messaggero, Svizzera, segreto bancario, addio. Per il Giornale, fine del segreto bancario, panico a sinistra. Questo è il titolo di prima pagina. Avvenire, la Svizzera esce dai paradisi fiscali. Mentre per il Manifesto, e questi sono alcuni dei titoli un po' diversificati, Euronotte, e questo è il titolo sulla Grecia. Mentre Libero, Rai da TV di Stato a TV di Renzi. Questa è l'apertura di prima pagina. Come al solito io voglio partire però a leggere anche delle notizie di altro taglio, come quella che riguarda la scuola, e oggi ci sono due pagine interessanti che vi voglio segnalare a partire dal Sole 24 Ore. Eugenio Bruno e Claudio Tucci raccontano l'indennizzo per i precari. Sapete che venerdì ci sarà in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola per cercare di capire anche come sarà la stabilizzazione. 120-130 mila precari, non si capiscono bene ancora i numeri. Comunque il Sole 24 Ore fa sapere che il decreto Buona Scuola, che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri venerdì, prevede tra l'altro che la progressione economica degli insegnanti sia legata per il 70% al merito e per il 30% all'anzianità di servizio. Cambia dunque la progressione economica, gli aumenti stipendiali saranno legati per il 30% all'anzianità, che ora invece vale per il 100% come criterio, mentre per il 70% debutterà il merito. Ora però bisogna capire con quali indicatori. Gli indicatori sono da definire. Per i docenti precari invece, accanto al piano di maxi stabilizzazione al 1° settembre, si sta facendo strada anche l'ipotesi di un maxi indennizzo studiato per tamponare gli effetti della sentenza europea di fine novembre che ha bacchettato l'Italia per l'eccessiva reiterazione dei contratti a termine. Ai professori che hanno lavorato da 3 a 5 anni con rapporti a termine su posti vacanti e disponibili verrebbe riconosciuto a domanda un risarcimento di 2,5 mensilità, che può salire fino a 6 mensilità se gli anni di insegnamento a termine sono da 5 a 10, e può arrivare fino a un massimo di 10 mensilità di indennizzo per precariati di oltre 10 anni. Ecco allora che arriva anche l'ipotesi di risarcimento a proposito di meritocrazia. Il Corriere della Sera anche dedica una pagina sulla scuola una pagina alla scuola perché, perché parla appunto del, dei precari, di chi verrà stabilizzato, quanti, i numeri. Claudia Voltattorni a pagina 23, un'intera pagina, il titolo è In graduatoria, supplenti, riservisti, la giungla dei precari da assumere. Graduatoria esaurimento, graduatoria d'istituto, abilitati ma non in graduatoria, specializzati con esperienza ma non abilitati, vincitori di concorso di anni fa e quindi di diritto in graduatoria ma da anni fermi a casa, e ancora supplenti in classe da più di 3 anni, supplenti solo per qualche giorno con meno di 36 mesi di anzianità, specializzati tirocini formativi attivi, specializzati percorsi abilitanti speciali, magistrali. Come vedete, non tutti i precari della scuola sono uguali. E ha un bel dire il presidente del Consiglio Matteo Renzi che grazie alla buona scuola nelle aule d'Italia spariranno del tutto i precari. Sarebbe una cosa davvero positiva se si riuscisse, ma va fatta una programmazione seria, rispondono i sindacati. Già sulle cifre si balla. Quanti sono i precari da stabilizzare? 150.000? No. 149.000? No. 120 o 130.000? Precario più, precario meno, come vedete al Ministero dell'Istruzione i numeri ancora non tornano. Si scoprirà però tutto venerdì e staremo a vedere. Mentre... Torna Schettino. Torna sulle prime pagine dei giornali Schettino. Un'altra intervista, un'altra pagina. Cristiana Mangani sul Messaggero, il comandante o comandante Schettino, a pagina 17 del Messaggero, torna sotto i riflettori. E parla di che cosa? Dopo il servizio delle Iene, che hanno incastrato un suo presunto emissario che trattava forse 2 milioni di euro per una partecipazione del comandante all'Isola dei Famosi. Eccolo qui, Schettino dice: è l'ennesimo pasticcio dei miei avvocati, è incredibile, guardavo il servizio in TV sulla presunta trattativa e mi sentivo in imbarazzo, sempre più piccolo. Io ho una figlia adolescente, in quei dialoghi si dicevano cose inverosimili, ho un dolore così forte. È mai possibile che ogni volta che la tensione sembra allentarsi scoppi una problematica nuova? Non vorrei dirlo, ma sembrano meccanismi quasi attivati a orologeria. Il complottone, accusa Schettino. Poi dice: sa perché ho preso come mio difensore l'avvocato Domenico Pepe? È successo quando ero in carcere, mi ha mandato un telegramma dicendo che voleva prendere la mia difesa, ci teneva, poi un altro telegramma a mio fratello con scritto: attenzione, tuo fratello si può suicidare. A quel punto la mia famiglia si è affidata a lui. Solo dopo ho scoperto che non studiava le carte, arrivava impreparato in aula. E poi praticamente sono stato l'avvocato di me stesso. Io conosco ogni virgola di quel processo. E poi gli altri avvocati miei venivano in 5 persone al seguito, tutto un bluff. Insomma, ce l'ha con i suoi avvocati Schettino, che ora dice: cambierò avvocati, sì sì, assolutamente, a breve. Giura: non voglio partecipare all'Isola dei Famosi, non ci ho mai pensato, ho sempre smentito. A novembre però la notizia è stata rilanciata, io ho fatto una nuova smentita, ma secondo voi in pieno processo avrei potuto avere interesse a fare una cosa del genere? Così Schettino, che dà la colpa agli avvocati. Trovate l'intervista sul Messaggero. Mentre di chi è la colpa per questa vicenda della Eternit? Beh, di chi è la colpa? Praticamente è arrivata la sentenza di Cassazione, le motivazioni, e si legge che per effetto della constatazione della prescrizione del reato intervenuta anteriormente alla sentenza di primo grado cadono tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento danni. Insomma, le vittime dell'amianto, come scrive il Corriere, come scrivono tutti, non avranno niente, neanche una lira. Perché le motivazioni della Cassazione con cui sono state annullate le sentenze che condannava l'imprenditore Schmidaini sono un atto d'accusa verso il modo in cui sono state impostate inchiesta e processi. La causa era giusta, ma il reato contestato era sbagliato. Ed è stato un reato prescritto ancor prima del via. Ora il procuratore Guariniello, che ha impostato tutta l'accusa, intervistato dal Fatto Quotidiano, dice: non è finita. Ora indaghiamo anche per omicidio. La sentenza della Cassazione è importante, ci atterremo a questa impostazione, è molto meditata, l'aspettavo proprio prima di fare la richiesta di rinvio a giudizio per gli omicidi volontari, e l'idea che tutto sia prescritto e tutto finito nel caso Eternit è sbagliata. Dunque, Guariniello insiste in questa intervista di Andrea Giambartolomei sul Fatto Quotidiano a dire ora procediamo per omicidio. Sta di fatto che c'è l'amarezza ovviamente a Casale, soprattutto ci sono tante delle vittime dell'amianto, e si parla ovunque anche su Repubblica di beffa Eternit, i reati erano già prescritti. Vabbè. Intanto il re è felice, Vittorio Emanuele risarcito, l'abbiamo detto ieri, lo scriveva il giornale, il re è felice per il risarcimento, ha detto che i 40.000 euro li verserà in beneficenza, li darò alle vittime della mala giustizia, non parla, ha fatto un comunicato, ha parlato solo il figlio, Vittorio Emanuele, no, come si chiama, io, mamma mia, questi nomi, chi è? Emanuele Filiberto, io dico i nomi dei principi e dei re e dei presunti re, non gliela fo. Comunque, insomma, ha preso questi 40.000 euro per 7 giorni in carcere e poi anche carcerazione domiciliare, tutto finito in nulla con le accuse di Harry Woodcock. 40.000 euro versati sono una somma irrisoria, dice il figlio, se si considera la montagna di quattrini spesi per l'inchiesta giudiziaria. Vabbè, comunque è felice e darà 40.000 euro in beneficenza. Mentre l'articolo che zare della giornata, quello che ci fa tenere le mani strette sul volante, l'apertura del Fatto Quotidiano che torna in prima pagina, e l'ho lasciato apposta e volutamente qui, condannati al vitalizio, è un tema di cui ci siamo occupati quando il presidente dell'Assemblea regionale siciliana ci ha detto qui ai microfoni di Radio 24, di 24 mattino, che volendo Camera e Senato, volendo domani, visto che c'è un parere dell'Avvocatura dello Stato, possono sospendere il vitalizio ai deputati che sono stati condannati in via definitiva per qualsiasi tipo di condanna. Lui lo ha fatto per Cuffaro in Sicilia. C'è un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla quale il Presidente del Senato Grasso, la Presidente della Camera Boldrini si possono rifare domani per sospendere i vitalizi ai condannati. E invece qui, Fatto Quotidiano, onorevoli condannati dalle tangenti al vitalizio continuano, seppur a una condanna definitiva, a prendere chi lo stipendio se è parlamentare, chi il vitalizio. Ci sono tutti i nomi: Previti, Dell'Utri, Berlusconi, De Michelis, Vito, De Lorenzo, Frigerio, Bonsignore, Pillitteri e altri. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oh, Milan, sì, è il numero uno, ciao. Grazie, caro ascoltatore. Allora ripartiamo dalla Svizzera, o meglio dall'Italia Svizzera. Tutti i giornali aprono con la notizia della firma dell'accordo che dà l'addio al segreto bancario tra Italia e Svizzera, accordo che è stato firmato ieri tra il ministro dell'economia Padoan e il ministro elvetico Widmer Schlumpf. Questo l'accordo firmato a Milano. In base a questo accordo, come scrivono Alessandro Galimberti e Lino Terlizzi a pagina 5 del Sole 24 Ore, c'è l'addio al segreto bancario. Ora il fisco italiano potrà chiedere dati e posizioni dei contribuenti. Dunque, Italia e Svizzera hanno ufficialmente firmato questa Pax fiscale. E quindi già da oggi l'Agenzia Fiscale Italiana potrà richiedere dati e posizioni di contribuenti basati in Svizzera anche al di fuori di procedimenti penali. Berna rinuncia per sempre a opporre quel segreto bancario che ne ha fatto per decenni la cassaforte privilegiata degli evasori della penisola. Dice il ministro Padoan, miliardi di euro così ritorneranno nelle casse dello Stato. L'accordo è stato incentivato dalla legge sul rientro dei capitali entrata in vigore il 1 gennaio scorso, quella che prevede l'emersione dei paesi blacklist nell'ipotesi di stipula entro 60 giorni di un accordo di trasparenza fiscale. Questo, che è già definito il protocollo di Milano, prevede due importanti benefici per la Svizzera e per i contribuenti italiani non compliant. L'Agenzia Fiscale Italiana rinuncia a contestare le infrazioni commesse tra il 2005 e il 2009, cioè gli anni d'oro dei capitali in fuga, limitandosi a punire quelle perpetrate tra il 2010 e il 2014. Questo trattamento di favore spetterà comunque solo ai contribuenti che entro il 30 settembre 2015 sceglieranno di aderire al programma della Voluntary Disclosure. Chi resterà fuori invece da questa operazione rischierà con molte probabilità di essere scoperto con nuovi strumenti di cooperazione internazionale, rischia sanzioni fino al 480% del capitale che verrà scoperto, oltre ai reati fiscali e a un nuovo pesantissimo reato, quello di autoriciclaggio. Comunque tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore, a pagina 5, c'è la foto anche della firma dei ministri delle finanze. E è quello che sono le novità in arrivo. Ovviamente so che molti di voi siete interessati e non fate finta di nulla. Invece la politica su cosa si anima? Beh, per il secondo giorno consecutivo c'è il dibattito con Landini, Maurizio Landini, 53enne leader della FIOM, che è al centro dei riflettori per la sua voglia, non voglia, smentita, rimentita, ridetta, ricontestata di scendere in politica. Allora, scende in politica o no? Dopo l'intervista al Fatto Quotidiano in cui ha parlato di una coalizione sociale da opporre alle politiche di questo governo. Beh, intanto Landini si è arrabbiato quando Renzi ha detto è uno sconfitto dal sindacato. Ieri era da Lili Gruber e ha detto: io sconfitto la FIOM a 350.000 iscritti, più del partito di Renzi. Però ha smentito: fondare un nuovo partito non ci penso proprio. Tra l'altro fa sapere La Stampa con Roberto Giovannini a pagina 8 che ieri Susanna Camusso ha convocato Landini. Questa cosa ha creato un po' di mal di pancia all'interno della CGIL, di cui la FIOM fa parte, ricordiamo. Poi che cosa succede, come si fa in questi casi? Che finito l'incontro sia Landini che Camusso hanno detto era un incontro programmato da tempo. In realtà La Stampa fa sapere, classica dichiarazione, in realtà pare più una convocazione d'urgenza da parte di Susanna Camusso a Maurizio Landini per capire che cosa abbia in mente. Landini fa un'intervista anche oggi a Repubblica, intervistata a pagina 14 e 15 da Roberto Mania. Intanto attacca Renzi, lo definisce peggio di Berlusconi perché oggi il governo di Renzi ha scelto di stare dalla parte della Confindustria. Applica tutto ciò che la Confindustria e la BCE dicono nella famosa lettera di agosto 2011. Però lo stesso Landini ammette: non ho problemi a dire che gli ultimi scioperi a Pomigliano e Melfi sono stati due clamorosi flop. E ancora sulla voglia di politica chiede Mania: scusi, ma cos'è una coalizione sociale se non il primo passo per dar vita a un partito? Ma no, non è così, risponde Landini. Una coalizione sociale vuol dire mettere insieme chi agisce nel sociale con al centro la questione del lavoro. Cioè, a chi pensa? A Libera di Don Ciotti, Emergency di Gino Strada, anche i soggetti che lei dice, risponde Landini, ma con tutti coloro che possono contribuire a dare rappresentanza al lavoro. E comunque il sindacato italiano ha sempre fatto politica. Questo Landini. Mentre dall'altra parte, beh, c'è da dire che se Landini cerca di colmare un vuoto di opposizione a Renzi è perché, come testimoniano i giornali da tempo, il vuoto totale c'è nel centrodestra per lo sbando di Forza Italia, per una Lega che sta, come dire, recuperando sempre più voti, ma certo non può essere accreditata come una forza in grado di raggruppare e di raccimolare voti per contrastare Matteo Renzi. Ecco infatti che i giornali raccontano ancora le difficoltà di Berlusconi, le liti confitto e poi soprattutto questa frase che Berlusconi, come racconta Repubblica, ha detto nuovamente nella cena del lunedì coi figli: mi vogliono in galera, i PM mi vogliono in galera. Sullo sfondo c'è che cosa? C'è questa dichiarazione e le mosse soprattutto di una delle cosiddette ex olgettine, Maristel Polanco, che avrebbe manifestato attraverso il suo legale nuovo, il suo nuovo avvocato, la voglia di parlare delle cosiddette cene eleganti. Ecco allora che sia Repubblica che il Messaggero giurano Guardate il titolo di Repubblica: Ruby Ter, l'ex cavaliere rischia altri 10 mesi di servizi sociali a Cesano Boscone. Il Messaggero dedica proprio una pagina a Maristel Polanco, iniziando nell'articolo di Claudia Guasco con un dilemma: ha parlato? Non ha parlato? È solo un tentativo per alzare la posta in gioco e incassare soldi da Berlusconi? Insomma, le mosse di Maristel Polanco sono l'incognita dell'inchiesta Ruby Ter, che sta creando panico nel fronte delle oggettine. Per Berlusconi, scrive il Messaggero anche come Repubblica, i benefici sono a rischio, potrebbero costargli un altro anno di domiciliari o ancora servizi sociali. Sta di fatto che tutti stanno cercando di capire Maristel Polanco cosa voglia fare. Ha cambiato l'avvocato, che ha detto: se intendi parlare io non ti seguo in questa strategia suicida. Si parla, scrive il Messaggero, di un emissario di Maristel Polanco che si sarebbe presentato dal contabile di fiducia di Berlusconi, Giovanni Spinelli, e poi è stato seguito dalla polizia a spendere diversi soldi e poi fermato nel valico di frontiera con la Svizzera con 5-6 mila euro. Il sospetto della procura è che quei soldi fossero un ulteriore incentivo al silenzio da parte di Berlusconi per Maristel Polanco. Insomma, c'è grande movimento e ci sono grandi rischi per Berlusconi. E poi c'è la questione della Lega. Anche la Lega un po' in difficoltà, soprattutto in Veneto. In Veneto, dove Salvini e Tosi sono passati alle accuse al veleno. Ieri l'intervista di Salvini, che dice quel dirigente della Lega, si riferiva così a Tosi, deve venire sabato alla manifestazione anti-Renzi. Tosi che dice: cerco di andare sabato compatibilmente con i miei impegni. Ma un Tosi che aggiunge ieri: in politica certe volte le distanze si riescono a colmare, altre volte no. E Libero giura: la Lega, che è accreditata a un più 18% con Zaia su Moretti, candidata del PD in Veneto, rischia di perdere la regione se c'è la spaccatura tra Zaia e il sindaco di Verona, Tosi. Staremo a vedere, come si suol dire. Intanto, corroborata da 3 punti, dalla terza vittoria consecutiva, dalla Coppa, la Supercoppona sempre più vicina, c'è un Mauro Meazza che esonda qui a Radio 24 di entusiasmo. Buongiorno Mauro. Buongiorno. No, non capisco questo. Sei tu che casomai potresti esondare di entusiasmo, no, così come hai testé detto, di cui ti assumi la responsabilità, perché sì. Sul Sole 24 Ore oggi parliamo del signor Wang Zhanlin. Ah. E tu dici: e chi è? Caro mio, potrebbe essere colui che si compra il Milan. È proprio così. Guarda, io vengo via con un paio di milioni di euro. Non voglio dirti altro, ti rimando alla lettura del Sole 24 Ore, questa volta nelle pagine di finanza. Ottimo, poi ottimo. Di voluntary disclosure oramai abbiamo parlato tanto, il rientro dei capitali. Ma chi è questo qui? Cioè, scusa, non è che puoi buttare questo, chi è costui? È un signore che ha abbastanza denaro per tutti i particolari stanno sul Sole 24 Ore di oggi, vedi? Non hai studiato. Si parla di una cessione. Appena vediamo, hai visto Milan non hai studiato. Non ho studiato, no, avevo delle difficoltà, ero distratto perché dovevo leggere in realtà la pagina di condominio. Oggi c'è la pagina sul condominio. Devi sapere che è ritornata in auge la multa che si può irrogare al condomino che non ottempera alla decisione dell'assemblea. Ma tutto questo, insomma, è una multa che si è ridotta a 5 centesimi, ma tutta questa vicenda è raccontata oggi nella pagina di condominio. Domani ci sarà uno speciale con il Sole 24 Ore dedicato al Jobs Act, ma si può anche dire riforma del lavoro, forse. Sì, forse io penso di sì. Forse sì. Ecco, dedicato alle novità della riforma del lavoro. E poi ti voglio segnalare che ci sono anche delle indicazioni al garante della privacy sulla dichiarazione precompilata, che è un altro tema ricorrente in questi giorni. Per quanto riguarda i tuoi 2 urini, non è che hai comprato una polizza? No. Ah, meno male, perché oggi raccontiamo anche una vicenda di polizze, come dire, ingombranti su cui l'Agenzia delle Entrate sta chiedendo delle precisazioni. Lo raccontiamo oggi proprio nelle pagine, a chiusura quasi delle pagine della voluntary disclosure, con anche tutti gli effetti, chiedo scusa per voluntary disclosure, insomma rientro dei capitali o come volete dirlo, ci sono anche queste vicende correlate di polizze. E tutto ciò premesso e salutando molto caramente il signor Wang Zhanlin, scusa, me lo devo guardare perché non ho ancora imparato bene. Devi dire una parola, però è tutto ciò. Devo dire, va bene, la dico. La traffico! Parola. Alessandro Milan, la Juventus dell'informazione. Adesso rubo un giornale. Questa è sottile, questa è sottile. Non l'hanno capita gli interisti, ma questa è sottile, eh? Questa è sottile. Allora, grazie comunque, caro ascoltatore, eh? Mandate le vostre siglette. Va bene, allora si parla ancora molto di Grecia. Di effetto Grecia, che come fa sapere il Sole 24 Ore ha lanciato i BTP e soprattutto c'è l'attesa per oggi. Il piano è slittato, perché Tsipras doveva presentare all'Eurogruppo le sei pagine che per la verità erano presenti, erano già pronte ieri, fanno sapere tutti i quotidiani, ma c'è stato un ultimo braccio di ferro, anche perché Tsipras ha a che fare con una opposizione interna di chi lo accusa di avere in qualche modo svenduto le promesse elettorali alla Troica, all'Unione Europea, all'austerity tedesca. Eccolo qui, l'ultimo braccio di ferro, il piano da 7 miliardi slitta questa mattina. Questo è il titolo di Repubblica, per esempio, a pagina 6. L'altra notte di trattative in Grecia. Ettore Livini, la rivolta all'interno di Syriza, il partito di Tsipras, obbliga il premier a rimandare tempi supplementari la presentazione a Bruxelles della lista di riforme del governo greco. E il nuovo piano in arrivo oggi all'Unione Europea, dopo una giornata di febbrili trattative con la ex Troica, potrebbe contenere l'impegno a introdurre alcune delle misure cosiddette umanitarie promesse agli elettori in campagna elettorale. Sono sei pagine messe a punto dal governo che erano già pronte ieri mattina, ma il premier ellenico, alla luce dei tamburi di guerra che suonavano all'interno del suo partito, le ha dovute rimandare. Ci sono per esempio uno dei decani di Syriza, l'eroe della resistenza Manolis Glezos, che dice: stiamo tradendo gli impegni, chiedo scusa ai greci. Insomma, oggi si capirà che cosa promette Tsipras. Secondo il Corriere della Sera, la pagina di Andrea Nicastro promette benzina e sigarette, stop al contrabbando, la lotta alla corruzione, un'imposta sugli immobili, la lotta all'evasione fiscale con l'obiettivo di recuperare 2 miliardi e mezzo e una lotta contro gli oligarchi e i finanziamenti occulti. Attenzione, perché il messaggio, tra l'altro, da parte di alcuni armatori greci è questo. Come racconta sempre Repubblica, se ci mettete nuove tasse noi abbandoniamo la Grecia. L'articolo lo trovate a pagina 9, sempre Ettore Livini, inviato a Atene, dice: gli armatori protetti per diritto costituzionale in 10 anni hanno portato 140 miliardi di utili all'estero, sinora non sono stati toccati perché producono il 7% del PIL, occupano nel loro settore 250.000 persone. Sapete che con le tante isole che ci sono in Grecia, ovviamente le flotte sono numerose, se ci colpite portiamo via le flotte, così minacciano gli armatori greci. Oh, veniamo un po' di cronaca spiccia. Che effetto fa vedere ancora il benzinaio, io dico il povero benzinaio, quello che durante la rapina, per sventare la rapina al gioielliere Zancan a Ponte di Nanto in provincia di Vicenza, ha sparato uccidendo uno dei rapinatori. Noi abbiamo ospitato il gioielliere Zancan. Ebbene, sappiate, come racconta Il Giorno con Lorenzo Sani, che lui, il benzinaio, e l'altro, il gioielliere, hanno ricevuto una busta con proiettili. E il messaggio: questi proiettili sono per voi. Oggi il benzinaio Stacchio, Graziano Stacchio, dice: ormai hanno vinto i criminali. Nonostante la fiaccola di solidarietà, ovviamente, pur dicendo la coscienza pulita, i complici del nomade colpito lo hanno fatto morire trascinandolo sull'auto, ma ovviamente adesso ho paura io, visto che ha ricevuto anche questa minaccia abbastanza esplicita. Il Corriere della Sera fa invece due pagine dal titolo Il terzo genere. Elena Tebano racconta la storia di una vicenda che viene fuori al tribunale di Messina. Riguarda una persona, S.D., sono le iniziali, rimane anonimato. Fino al mese scorso questa persona aveva scritto sulla carta d'identità studente e un nome da uomo. Questa ragazza di 21 anni ora ha scritto sulla carta d'identità studentessa universitaria. Ma attenzione, non ha fatto nessuna operazione di cambio di sesso. È una dei circa 50.000 italiani che soffrono di disforia di genere, cioè non si riconoscono nel loro sesso di nascita, ed è la prima volta che in nome del diritto a una diversa entità di genere, sconnessa dal sesso biologico, il Tribunale di Messina ha concesso di poter cambiare il sesso legale senza compiere operazioni di adeguamento chirurgico. È successo a novembre a Messina. Tra l'altro, un mese dopo, il Tribunale di Vercelli ha detto no a un'analoga richiesta, come succede spesso in Italia. Lo stesso aveva fatto in estate quello di Trento, respingendo il ricorso di Monica Notarangelo, ricercatrice 47enne di Scienze Forestali. Insomma, in alcuni casi vengono respinti, in altri casi, come a Messina, è stata accolta la richiesta di voler cambiare sesso perché non ci si riconosce nel proprio sesso di nascita, ma senza fare operazioni. È successo a Messina e il Corriere della Sera dedica due pagine a questa tematica, pagina 26-27. Va bene, siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccoci qua, siamo sulla Stampa. Paola Guabello, c'è una nuova moda. Caro Lorenzo Nespoli, caro Peter Bescapè, preparatevi, c'è una nuova moda. Cara Anna Migliorati, c'è una nuova moda in arrivo. È arrivata qui Anna Migliorati. C'è una nuova moda in arrivo e la Stampa vi dedica una pagina. È il knitting. Knitting. Mi guardano e dice: ma gooming? Ehi, sferruzzare con la maglia. Sferruzzare con la maglia. Anche per gli uomini. Sempre di più. Ma chi se ne frega?